forse sbaglio nella teoria assoluta. Trascurarmi sono io, non è Dio che non m'aiuta. Forse sbaglio ad aver perso la fiducia nella specie umana, specie in quella più evoluta. E forse sbaglio a non credere a chi usa la sua insicurezza come scusa, rinunciando a chi è a capo dell'accusa, a chi proclama idee per un guadagno, a chi le usa. E in fondo forse sbaglio, ma se non altro continuo a cambiare strada e dopo vada come vada in Parlamento sull'entrata mano armata. Forse sbaglio, ma son nato nel mezzo del resto, generazione X, quella inculata. Forse sbaglio a non volerne donna né carriera, ma è un sistema che ti incula appena ti volti di schiena. E forse sbaglio a non volerne moto né carriera, forse cambio, aspetta un'altra era. Forse sbaglio a non far strade troppo comode agli stoni, cazzate preconfezionate da impiegati zombie. Forse sbaglio a non tirarmelo a far musica per sordi, ma chi c'ha ragione o torto si vedrà l'ultimo giorno. Forse sbaglio a non far strade troppo comode agli stoni, cazzate preconfezionate da impiegati zombie. Forse sbaglio a non tirarmelo a far musica per sordi, ma chi c'ha ragione o torto si vedrà l'ultimo giorno. Forse sbaglio a non prendere posizione, né partito né fazione, venditori di illusione. Forse sbaglio e mi sfugge la ragione, ma la gara è fra chi mente, chi lo mette non ammette confessione. Forse sbaglio a diffidare dell'amore, ormai non mi preoccupa, mano sopra il collo, prima coccola poi soffoca. No, non parliamo un altro po', no, visti i tuoi bei discorsi, meglio essere un misantropo. No, noi non siamo prigionieri, voi non siete carcerieri, ma dei grandi cavalieri. Forse sbaglio, nel dubbio, appena sei distratto, io mi taglio il guinzaglio, scompaio, poi morto e non abbaio. Forse sbaglio a tenere la libertà sopra ogni cosa, non ho capi, manco abiti firmati e non ho sposa. Forse sbaglio a 28 a far sempre ciò che voglio, o forse vi sbagliate voi, si vedrà l'ultimo giorno.